È possibile immaginare un itinerario di visita delle torri di Bologna. Per esempio, si potrebbe partire da Piazza Maggiore, dove si trovano la Torre dell'Arengo e la Torre a Corsi, ovvero la Torre dell'Orologio, che originariamente era con ogni probabilità una casa-torre, prima di essere inglobata nel Palazzo del Municipio. Da qui è sufficiente fare il giro dell'isolato e una volta in Piazza Rienzo ci si trova davanti Torre Lambertini, incasellata in un angolo di Palazzo Rienzo, legata al nome della potente famiglia guelfa che contribuì alla cattura del figlio di Federico II. Da questa posizione è possibile scorgere Torre Scappi e elevarsi sopra i tetti di Via Indipendenza, oggi inglobata nella cinquecentesca Casa Coccapani. Sorge non molto lontano da qui, proprio alle spalle della Cattedrale Metropolitana di San Pietro, la Torre Coronata, ovvero Torre Prendi Parte, soprannominata così per il pinnacolo sulla sommità. Con i suoi 60 metri abbondanti è la seconda torre gentilizia più alta di Bologna, ma lo spessore dei muri alla base fa pensare che in passato doveva essere ancora più alta. Quindi probabilmente è stata accorciata per qualche motivo, oppure non è mai stata terminata. Torre Prendi Parte vanta ben 12 piani perfettamente agibili e rappresenta una delle testimonianze più significative del passato della città. Costruita dalla famiglia Prendi Parte come ultimo baluardo in caso di assedio, è passata alla curia durante il XVI secolo ed è stata in un primo tempo estensione del seminario arcivescovile e in seguito carcere dell'arcivescovado per reati di carattere religioso. Erano adibiti a prigione il terzo, quarto e quinto piano, dove sono ancora presenti i graffiti tracciati sull'intonaco dai carcerati. Posizionandosi in via degli Albari, all'incrocio con via Albiroli, ecco presentarsi agli occhi un'analoga quanto inattesa accoppiata sullo stile delle torri Asinelli-Garisenda, seppure in miniatura, con la prospettiva offerta dalla coppia Torre Prendi Parte e Torre Guido Zagni. Quest'ultima, oggi alta una ventina di metri, è omonima di una delle torri abbattute all'inizio del secolo scorso. Questa Torre Guido Zagni scampò alla distruzione nel 1487, quando un crollo ne compromise la struttura. Il proprietario, il professore di diritto Petronio Guido Zagni, ultimo esponente della sua famiglia, era così ben voluto in città che il Senato bolognese gli elargì 400 lire per la ricostruzione. Una curiosità. All'inizio del Novecento ne entrò in possesso la Società dei Telefoni Italia Medio Orientale, che ne fece la sua centrale di commutazione manuale della città. In precedenza, la società si era servita per lo stesso scopo della torre Tanti Denari, che era ubicata in via Rizzoli, ma che fu demolita dall'amministrazione comunale nell'ambito del solito piano di riqualificazione urbanistica. Percorrendo via Sant'Alò fino a incrociare via Altabella, si incontra Torre Azzoguidi, detta appunto Altabella perché alta e slanciata. Come elevazione siamo sull'ordine della sessantina di metri, ma anche in questo caso una risega presente a 28 metri di altezza fa supporre che originariamente fosse ancora più alta. Sappiamo che la famiglia Azzoguidi, della quale fece parte tra l'altro il primo tipografo bolognese, possedeva un'altra torre in città, oggi scomparsa, che sorgeva dalle parti di via Oberdan all'angolo con la piazzetta di San Simone. Alcune torri sono talmente integrate negli edifici adiacenti da essere a malapena riconoscibili. Un esempio è Torre Agresti, casa-torre situata in piazza Galileo, proprio di fronte alla questura. La piazza stessa è stata ricavata dalle demolizioni degli anni 20 e 30 del secolo scorso e allargata dopo i danni provocati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La torre era scampata alla distruzione già nel 1641, quando il 2 agosto, data infelice per la storia di Bologna, scoppiò un incendio nella vicina bottega di un ottonaio che si propagò ben presto negli stabili adiacenti. Si racconta che il fuoco continuò ad ardere per giorni a causa dei forti venti, scatenando il panico per via delle polveri da sparo che erano stoccate nella vicina Torre Lapi, che fortunatamente non venne intaccata dalle fiamme. Torre Lapi, peraltro, è analogamente integrata in un edificio. Si tratta di Palazzo d'Accursio, di cui abbiamo parlato qualche capitolo fa. Pare che in origine facesse parte dell'antica cerchia muraria di Selenite, della quale era una porta d'accesso, Porta Nova, poi adattata dalla famiglia Lapi. Nascosta alla vista del passante distratto è invece Torre Galluzzi, visibile soltanto entrando in Corte Galluzzi da Piazza Galvani o da Via D'Azeglio. È tradizionalmente accostata a Torre Prendi Parte e Torre Azzoguidi, insieme alle quali forma la triade dei grattacieli medievali di Bologna. Tutte e tre le famiglie erano di parte guelfa, filo papali, e la posizione delle loro torri non è casuale, ma strategicamente vicina ai centri di potere. La prendi parte e la azzoguidi alla sede arcivescovile, la Galluzzi all'antica sede del comune, che prima di Palazzo d'Accursio era nel complesso di Sant'Ambrogio, che sorgeva a fianco a dove ora c'è l'abside della Basilica di San Petronio. Corte Galluzzi era una vera e propria cittadella e alla torre si accedeva soltanto tramite una passerella posizionata a circa 6 metri da terra che la collegava alle case adiacenti. L'apertura presente al pian terreno è stata ricavata in tempi relativamente recenti. A Torre Galluzzi è legata la triste storia dei Giulietta e Romeo Bolognesi, che nel nostro caso si chiamavano Virginia Galluzzi e Alberto Carbonesi. Ma attenzione, non si tratta di finzione teatrale, bensì di realtà. Virginia e Alberto si innamorarono nonostante le rispettive famiglie fossero di fazione opposta. I Galluzzi, infatti, erano tra i più accesi e belligeranti esponenti della nobiltà guelfa, mentre i Carbonesi erano di fede ghibellina. Si narra che Virginia e Alberto, con l'aiuto di persone fidate, riuscirono a sposarsi in un luogo segreto. Tuttavia, quando il padre di Virginia lo scoprì, organizzò una spedizione punitiva nei confronti dei Carbonesi, uccidendo tutti i membri della famiglia, compreso Alberto. Al ritorno, tuttavia, Virginia fu trovata impiccata a un balcone dei Galluzzi e c'è chi pensa che siano stati i suoi stessi fratelli a ucciderla, per poi inscenarne il suicidio. Un finale tragico che dà la misura di quanto la Bologna medievale fosse suggestiva e crudele. La torre scomparsa.